Elviro del Campo comparve davanti al tribunale di Toledo nel 1568. Al momento dell'arresto, nel luglio dell'anno prima, era una giovane donna incinta. Il bambino era nato in prigione, ma nessuno seppe la sua sorte. Era una cristiana e aveva sposato un cristiano, sua madre era ebrea e suo padre un cristiano. La santa, per così dire, Inquisizione cattolica aprì il 6 aprile il procedimento ufficiale a suo carico e fu avvertita che sarebbe stata torturata se non avesse detto tutta la verità, ma insisteva che non sapeva nulla. Cadde in ginocchio e implorò gli inquisitori di spiegarle cosa volessero che dicesse, poiché sarebbe stata felice di accontentarli, ma essi ripetevano che lei sapeva qual era il suo peccato. Poiché continuava a dichiararsi innocente, fu portata nella sala delle torture e denudata. Poi le furono consegnate un paio di mutandine per coprire le vergogne. Fu torturata senza pietà, mentre lei chiedeva del continuo la ragione della sua colpa. La tortura fu sospesa per 4 giorni perché non riusciva più a parlare e quando si ritrovò di nuovo nella sala delle torture si accasciò e pregò che coprissero la sua nudità. Vicari di Cristo, il lato oscuro del papato, Peter De Rosa. Ottobre 1991, pag. 191. Di fronte a questo breve e succinto racconto tratto dall'insuperabile opera in 4 volumi History of the Inquisition in Spain, Storia dell'Inquisizione in Spagna, di Henry Charles, si rimane esterrefatti per ciò che l'uomo possa fare nel nome di Cristo. Ma proprio perché l'episodio non nasconde nulla della propria drammaticità, emerge con una certa violenza il comportamento di Elvira, cioè il suo pudore in merito alla sessualità. In un momento del genere, quando la sofferenza viene alimentata e provocata al vertice della sopportazione, quando la tua unica preoccupazione sarebbe quella di non soffrire, che ti importa di cosa vedono gli altri delle tue parti intime? Che vedano pure, facciano quello che vogliono, a me interessa solo di non soffrire. Eppure Elvira, nonostante ci fosse in vista la morte tremenda sul rogo, in mezzo ai tormenti della tortura, si preoccupava che coprissero la sua nudità. Non dice nulla questo, fu rilasciata solo dopo 6 mesi, forse perché era impazzita. Il pudore. Il pudore è un sentimento di autonomia del proprio corpo, il quale non vuole essere in balia dello sguardo altrui. E una sorta di protezione psicologica che permette di difendere uno spazio proprio. E un sentimento molto positivo e molto importante, che non deve essere confuso con la vergogna. Il pudore è una certa fierezza e gioia di essere me stesso. Le persone pudiche hanno spesso molto rispetto per lo spazio degli altri. C. È chi pensa che il pudore sia frutto della cultura. E in parte un certo pudore lo è, ma è sufficiente notare che il bambino fin da piccolo non ama eccessive intrusioni nemmeno quando viene accudito. Più tardi, con lo sviluppo della sessualità, il pudore acquisisce ulteriore importanza. La riservatezza sessuale si manifesta poi ulteriormente nella fase adolescenziale. Infatti, gli adolescenti sono molto pudici, non vogliono che si guardi il loro corpo e che si entri nella loro camera, perché essi stanno costruendo la loro personalità. Quando un bambino scopre di essere un maschio o una femmina, il pudore stabilisce il limite che gli permette di definirsi. Questo sono io. Il mio corpo sono io. Il pudore è un valore esaltato dai greci e dai romani, ed è presente anche nella Bibbia, soprattutto nel famoso episodio di Noè, quando rimane nudo dopo essersi ubriacato. 2 figli lo coprono in modo tale da non vederne la nudità, e questo da notare benché fossero maschi. Un comportamento nettamente in contrasto con i centri di nudismo attuali, dove il pudore sembra non esistere, i quali in realtà non manifestano altro se non il desiderio di vedere la nudità del prossimo o di mettere in mostra la propria, al punto da far slittare il pudore in secondo piano. E, come una donna che partorisce, il momento del parto non è certamente il più indicato per mostrarsi pudiche, ma terminato il suo compito, la donna mette il pudore al primo posto. una necessità più forte mette a tacerne un'altra. Così coloro che mostrano a chiunque il proprio corpo senza veli come se non conoscessero la vergogna, sono tanto presi dall'obiettivo di mostrarsi, da far passare il pudore in secondo piano. Lo dimostra poi il fatto che, eventualmente, si svergognano di fare una brutta figura in una certa circostanza. I sentimenti quali la paura, il pudore, la vergogna esistono in tutti gli esseri umani, maschi e femmina, e noi abbiamo la facoltà di nutrirli o soffocarli, e anche di indirizzarli dove vogliamo. Questo spiega perché non abbiamo lo stesso atteggiamento nei confronti della sessualità. Purtroppo il pudore è disprezzato nella società odierna, a causa dell'esibizionismo imperante che caratterizza il nostro tempo. Bisogna mostrarsi per esistere e riuscire. Oggi si tende a confondere il pudore con l'imbarazzo, ma è sbagliato. Viviamo in un clima che ci impone di mostrare ogni cosa, mentre per sopravvivere è necessario mantenere un certo riserbo. Il pudore non è vergogna, anche se il dizionario lo classifica come senso di riserbo, vergogna e disagio nei confronti di parole, allusioni, atti, comportamenti che riguardano la sfera sessuale. Chi ha vergogna mostra di avere un problema con la propria immagine, si ripiega su se stesso perché non si sente a proprio agio. E ciò che è successo al giardino dell'Eden, dove Adamo e Eva, dopo aver disubbidito, non si sentirono a loro agio e si nascosero dalla presenza corporea di Cristo che camminava nel giardino perché erano coscienti di essere nudi. La virtù del pudore innata in loro si trasformò in vergogna, qualcosa di bene si trasformò in qualcosa di male, perché, come disse Agostino, il male non è se non privazione del bene fino a nulla assoluto, e ancora il male è il pervertimento della volontà che si allontana dall'essere sommo Dio. Confessioni. Perciò se il male è la privazione del bene, privazione nella quale si trova tutta l'umanità dalla nascita, avendo di nuovo recuperato il bene grazie alla presenza dello Spirito Santo, ottenuta mediante una nuova nascita e il conseguente possesso di una nuova natura divina, il credente in Cristo non si vergognerà più di se stesso, della sua immagine e della sessualità come una volta, ma realizzerà appieno una armonia tra l'essere e l'espressione del suo essere. Una dimostrazione di questo cambiamento lo si vedrà proprio nell'ambito della sessualità, dove la linea di demarcazione tra la vergogna e pudore è ai minimi termini. Donne che possiedono un sentimento di autonomia del proprio corpo e che non vogliono essere in balia dello sguardo altrui non avranno problemi nell'ambito matrimoniale a mostrarsi senza veli a colui con il quale sono diventate una stessa carne. Purtroppo sembra che per molte coppie la nuova nascita influisca su tutto, ma non nella camera da letto. La protezione psicologica, che permette di difendere il proprio corpo dagli sguardi, in un matrimonio riuscito dovrebbe diventare nulla. Si dovrebbe tornare ai livelli dell'Eden prima della disubbidienza. Anche se nelle traduzioni delle nostre Bibbie non si trova il termine pudore, se ne parla con altri termini e sotto ad altri concetti. Quando l'Apostolo Paolo ordinò, similmente le donne si vestano in modo decoroso, con verecondia e modestia, 1 Tim 2.9, voleva proprio dire alle donne di vestirsi con pudore, cioè in modo di non essere in balia o oggetto di sguardi provocanti altrui. Ma un ordine del genere all'inizio del XXI secolo sembra proprio passare da un orecchio all'altro alle ragazze certe donne credenti, e spesso mi sono chiesto il perché. Tutto è normale, anche se non tutto è lecito. Infatti è innato nella donna il desiderio di essere osservata, notata, ammirata, e questo non è malvagio. Tuttavia male diventa quando si soddisfa questo desiderio naturale in modo illecito, cioè con lo scoprire parti del corpo che non dovrebbero essere scoperte per conformità alla cultura nella quale si vive. Si parla di cultura perché è evidente che per una donna, membro di una tribù africana, dove aver scoperto il corpo dalla cintura in su è normale, la parola pudore ha una connotazione diversa. Ricordiamo che l'amore, cioè quell'atteggiamento che non fa male ad alcuno, Ro 13.10, è anche non comportarsi in modo sconveniente, 1 Cor 13. Proprio perché la donna ha inclinazione a voler essere notata, Paolo le ordina di non farsi notare con trucchi particolari trecce, o vestirsi con dell'oro o perle e abiti costosi. È evidente che l'errore non sta nel trucco o nei gioielli, ma quando queste cose diventano per lei ragione di seduzione o di vanto. Ecco perché Dio ordina alla donna cristiana di avere l'obiettivo di essere notata per le sue buone opere. Questo è il punto. Perciò il pudore, cioè quel sentimento di riservatezza, segretezza o di discrezione, deve essere una virtù costante in tutti i settori della vita di chi si professa un cristiano. Forse è questo che manca in molti figli di Dio. Essi non conoscono la vita nascosta con Cristo in Dio, col 3.3, ma, come si è detto, impera in loro un certo esibizionismo sia nel testimoniare di Cristo sia nel servirlo. E questo lo dimostra il fatto che appena trovano una opposizione MT 13.21 e B 12.3, tornano alla vita di prima, o, meglio che vada, il loro impegno per Cristo non è più quello di prima. Ma i tempi sono giunti ormai che i veri cristiani dovranno vivere come nell'era apostolica, dove il pudore era una delle virtù più ricercate. Che Dio ci dia di imitarli. Ellero,